Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano, puntata speciale. Perché? Perché l'attualità internazionale chiama la nostra attenzione in Libia, dove si stanno consumando molto probabilmente le ultime ore di Gheddafi alla guida del paese. Le coordinate per interagire con noi sono il 349-238-6666, la pagina Facebook Nessun Luogo Lontano, la mail nessunluogo@radio24.it. Con me a confezionare questa puntata c'è come sempre Riccardo Poli, alla parte tecnica c'è Mauro De Angeli, ma adesso andiamo subito a Tripoli. Il canto del cigno del colonnello Gheddafi, del Rais asserragliato, pare nel suo bunker e mistero sulla sua sorte, qualche ora fa suonava più o meno così. The battle is to be decided through the people. The people has to do this job. The people has to be able to free his country and to defend his territory and to defend his sovereignty. This is the battle that needs to be decided through the masses of the Libyans. I am here in Tripoli. È così Gheddafi che chiamava a raccolta i suoi fedelissimi per un'ultima difesa a oltranza. Tripoli in realtà in questo momento è quasi del tutto nelle mani dei ribelli, si dice 85-90% appunto, tranne la zona del suo compound. Due figli sicuramente sono agli arresti. La morsa dei ribelli si è stretta e nel giro di poche ore la capitale libica appunto è stata raggiunta da Zintan, da Sud, poi da Zawiya. Le forze ribelli sono giunte a Tripoli e poi l'insurrezione nella capitale ha fatto il resto. Solo poche ore fa il figlio Muhammad in diretta su Al Jazeera raccontava così il suo arresto. I've never been aggressive to anyone and have always wanted the best for all Libyans, in the past and also for the future. I've never been a government or security official. However, I can tell you the absence of wisdom and foresight is what brought us here today. Our differences could have been solved very easily. I'm being attacked right now. This is gunfire inside my house. They're inside my house. E come sentite in questa drammatica testimonianza trasmessa poche ore fa da Al Jazeera, appunto il figlio Muhammad raccontava di come i ribelli fossero ormai entrati nella sua abitazione. L'altro figlio, Khamis Gheddafi, detto il macellaio, a capo della 32esima brigata, in queste ore avrebbe lasciato il compound e si starebbe dirigendo verso il centro di Tripoli, forse l'ultimo colpo di coda del regime. Un regime che comunque continua a mostrare i muscoli in qualche modo, perché proprio ieri la TV di Stato mostrava una conduttrice con una pistola in pugno. يا قاتل يا مقتول اليوم قناة الليبية مش هتاخدوها قناة الشبابية قناة الجماهيرية طرابلس ليبيا كلها مش هتاخدوها كلنا هنا مسلحين اللي ما عندهش سلاح مستعد ان هو يكون درع من اجل ان يقوم بحماية زميله وزميلته في هذه القناة كلنا مستعدين ان احنا نستشهد. I ribelli l'avevano promesso, la caduta di Tripoli del Rais entro il Ramadan, avevano detto, insomma, detto fatto. Perché un'accelerata così improvvisa nelle operazioni militari? Molto probabilmente le tribù berbere dell'Ovest, che da un mese si sono unite ai ribelli, hanno dato questa improvvisa accelerazione. Do intanto il mio benvenuto al sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica. Sottosegretario, buongiorno. Buongiorno a voi. Possiamo, sottosegretario, ragionevolmente dire che sono le ultime ore del regime libico o si aspetta qualche colpo di coda, qualche colpo di scena? Beh, no, a livello di cadute del regime credo possiamo tranquillamente prenderne atto. Dobbiamo stare molto attenti perché nelle ultime ore, nelle ultime vicende ci sono delle preoccupazioni sia per diciamo tentativi estremi di contrattacco da parte delle forze di Gheddafi, sia per incitazioni alla rivolta o alla battaglia finale che potrebbe fare il leader libico. Tutti noi speriamo che si arrenda e che la partita si chiuda qua, ma evidentemente questo è un pericolo a cui dobbiamo fare molta attenzione, perché nelle ultime ore, non dico che può ribaltarsi la situazione, questo lo escludo, ma può anche innestarsi un processo poi duro da gestire nella fase di transizione. Ecco, gli osservatori già in queste ore si stanno lanciando in quelle che potrebbero essere nel tratteggio delle prospettive della Libia post Gheddafi. Sottosegretario, le spaccature del Consiglio Nazionale Transitorio un mese fa, l'omicidio del generale Yunis, le ha, come dire, in qualche modo conclamate, quelle logiche tribali che fino in questo momento erano state tenute, quantomeno erano state contenute in vista della vittoria finale. Non ha l'impressione che possa essere un momento di debolezza? Mi dicono che il sottosegretario è caduta la linea, sì. Allora, do intanto il mio benvenuto allora al professor Carlo Gion, docente di studi strategici alla LUISS. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, in realtà giro a lei la domanda che stavo facendo al sottosegretario Mantica. Si diceva, allora, queste spaccature del Consiglio Nazionale Transitorio, dicevo un mese fa, l'omicidio per una faida interna del generale Yunis, aveva in qualche modo mostrato a tutti che tutta la compattezza proclamata fino a quel momento, no, dalle tribù libiche ribelli, in realtà poi mostrava qualche cedimento. Lei teme che nel post Gheddafi queste crepe vengano ancora di più alla luce? Ma guardi, evidentemente c'è una possibilità, e tutto dipende molto dalla capacità del Consiglio Nazionale Transitorio di evitare vendette sui fedeli di Gheddafi. Se queste vendette ci saranno, sicuramente ci sarebbe una reazione, e reazione che potrebbe determinare una situazione molto simile a una guerra civile con prolungata, con i procedimenti della guerriglia, con procedimenti del terrorismo, con una situazione abbastanza simile, cioè a quella che si è determinata in Iran e in Iraq dopo l'occupazione americana. La differenza tra la Libia e l'Iraq è il fatto che mentre in Iraq erano stati gli americani a conquistare Baghdad, adesso sono i libici che hanno conquistato Tripoli, e di conseguenza dovrebbe esserci maggiore possibilità di un accordo tra le parti che finisce ad essere determinante per la stabilizzazione della Libia. Ecco, ha citato il caso iracheno. In effetti, proprio del caso iracheno parla anche il vice premier inglese in un'intervista rilasciata al quotidiano Independent, e dice Nick Clegg che la Gran Bretagna eviterà di fare gli stessi errori commessi in Iraq dopo che appunto il regime Saddam Hussein era crollato. E questo in qualche modo è il grande spauracchio, no? Il grande fantasma, cioè alla fine di, come dire, partecipare alla caduta di un regime e poi però lasciare un paese in un caos e in un'anarchia. Sì, perché distruggere è facile, che costruire invece è molto più difficile. Dipende un pochettino se il Consiglio Nazionale Transitorio è veramente nazionale, e nel senso che cerchi una conciliazione nazionale, in particolare con le tribù che sono state fino alla fine fedeli a Gheddafi. E delle tribù, diciamo, se ne è parlato in realtà non abbastanza probabilmente in Libia, perché sono 140 le tribù libiche, una trentina di loro, di queste, hanno un'influenza politica, e mettere insieme le aspirazioni e le logiche di ogni tribù certamente non sarà facile. Peraltro, in Consiglio Nazionale Transitorio, dopo l'omicidio di Yunis, in qualche modo il presidente ha esautorato questo esecutivo, il che vuol dire che se Tripoli, come sta accadendo, sarà nelle mani del Consiglio Nazionale Transitorio in poche ore, in pochi giorni, insomma vediamo, in realtà i ribelli stanno consegnando Tripoli a chi? Non c'è un esecutivo, quindi questo mi sembra un dato politico molto molto importante. No, quello lì sicuramente. E il Consiglio Nazionale Transitorio, tra parentesi, può contare sulla brigata Tripoli, che è una brigata proprio di antisommossa, anti-saccheggio, così via, che è stata addestrata in particolare con l'aiuto che il Qatar ha dato al Consiglio Nazionale Transitorio di Bengasi. Evidentemente in una città di 1.000.000 e passa di abitanti come Tripoli, una brigata solo non è sufficiente, quindi ci dovrà essere sicuramente un'azione di convincimento per evitare soprattutto vendette che in una situazione come quella libica, in cui ci sono la base della società costituita da tribù, da clan e così via, finiscono ad essere abbastanza difficili da controllare. Intanto do il mio buongiorno nuovamente al sottosegretario Mantica, con cui abbiamo ristabilito il collegamento. Sottosegretario, ribuongiorno. Buongiorno a voi. Ecco. Mi dispiace. Di che? Allora, le stavo chiedendo se secondo lei queste spaccature in seno al Consiglio Nazionale Transitorio, queste dinamiche tribali in qualche modo tenute a bada fino adesso in vista dell'obiettivo finale, possono diventare un elemento detonante nei prossimi mesi. Ma io credo innanzitutto dovremmo fare uno sforzo per capire cos'è avvenuto nell'ultimo mese, perché queste ricostruzioni abbastanza semplicistiche, per cui di colpi ribelli avrebbero trovato una capacità d'attacco che fino a un mese fa non avevano, vanno spiegate. Cioè, secondo una valutazione abbastanza attenta, c'è un fenomeno nuovo e dirimente, che è quello delle tribù berbere della montagna, che hanno scelto di attaccare Gheddafi e che sono certamente alleate con il CNT, in quanto hanno un unico nemico che è Gheddafi. La prima cosa è vedere quanto hanno in comune nella ricostruzione della Libia, e questo è un punto evidentemente che rende qualche elemento di difficoltà. Certo. Sottosegretario, abbiamo parlato dei berberi, allora ascoltiamo insieme Cristiano Tinazzi da Tripoli, che poche ore fa fotografava in questo modo la discesa in campo appunto delle tribù berbere. E i berberi, fin dall'inizio l'Annalut è stata una delle prime città che si è ribellata al colonnello Gheddafi. In tutti questi mesi sono stati un po', diciamo, tenuti da parte dalla stampa che si è occupata più di Misurata e di quello che credeva del fronte est. In realtà la popolazione berbera, che è sempre stata repressa, non si poteva parlare la Mazig, non si poteva insegnare la cultura berbera nelle scuole, ha colto questo momento per poter rivendicare i propri diritti e la propria autonomia. È stata sì determinante, perché nessuno si aspettava comunque che riuscissero a scendere così breve tempo dalle montagne. Sicuramente il supporto NATO, probabilmente gli strateghi della NATO hanno capito che questa era la mossa giusta per colpire al cuore Tripoli, e hanno dato tutto il tipo di supporto, compreso anche il Qatar, perché dalla Tunisia entrava di tutto, dai consiglieri militari alle armi, al supporto aereo da parte della NATO, che ha spianato la strada ai ribelli. Questo è stato evidente, insomma. E quindi sicuramente un ruolo importante, fondamentale, è stato giocato dalle tribù berbere, che insomma da circa un mese hanno deciso di appoggiare apertamente la ribellione, che insomma dopo sei mesi di feroci battaglie, giustamente Tinazzi ricordava che i media si sono poi concentrati su quella che è stata una battaglia lunghissima, cruenta e durissima, quella di Misurata, dove sono state commesse senza dubbio atrocità, ma intanto all'ovest qualcosa si muoveva, appunto si sono mossi i berberi. Professor John, torno da lei. Come può fotografare sinteticamente il ruolo della NATO in questa crisi libica? Fondamentale, di supporto? Senza l'intervento della NATO non saremmo a questo punto? Il ruolo della NATO è stato determinante sicuramente nella fase iniziale per bloccare l'avanzata di Gheddafi verso Bengasi, ed è stato sicuramente fondamentale anche alla fine per gli aiuti che hanno dato alle popolazioni berbere delle montagne, che sono circa all'incirca vengono valutate circa 300.000 persone, e che devono essere state mobilitate quasi integralmente, che sicuramente hanno ricevuto anche il supporto di istruttori o di forze speciali occidentali, in particolare britanniche e francesi. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, gentili ascoltatori. 13, 31 minuti, 50 secondi in questo istante. La Libia a nessun luogo è lontano. Forse si sta consumando in questo l'ultimo atto in queste ore della strenua difesa del Rais a Tripoli. La stiamo raccontando in questa puntata speciale di Nessun luogo è lontano. Eravamo con il professor John Della Luis e con il sottosegretario degli esteri Alfredo Mantica. Stavamo cercando di tratteggiare quello che è stato il ruolo della NATO e dell'Occidente in questi sei mesi di rivoluzione libica, ma quale sarà il ruolo dell'Occidente nel futuro? Sottosegretario, il ruolo dell'Italia, c'è una componente fondamentale che è quella energetica, c'è il ruolo del petrolio, del gas libico, quale sarà il ruolo dell'Italia nella Libia del futuro? Il ruolo dell'Italia innanzitutto è disegnato dalla geografia, voglio dire, siamo confinanti e vicini e comunque avremo rapporti intensissimi, lo abbiamo da dal 1911, se vogliamo celebrare i 100 anni del primo intervento italiano in Libia, storico e coloniale. Ricordiamo che nel 73 il primo accordo con Gheddafi l'ha fatto Aldo Moro, per dire tutti i governi, tutte le forme di governo hanno comunque dovuto intrattenere rapporti con la Libia, quindi è chiaro che un ruolo di grande importanza data dalla vicinanza l'abbiamo. Questo vuol dire anche relazioni, conoscenze, non è un caso che Jalou sia passato da Roma, che Moussa Koussa prima di andare in Inghilterra, tutti sapevamo, era a casa a Roma, cioè i libici hanno spesso svolto le loro attività sul nostro terreno e forse il generale Jean potrebbe anche spiegarci quanto è stato ufficiale e quanto è stato ufficioso di questa loro presenza, quindi sono rapporti intensi, c'è il petrolio, sono le concessioni, sono degli accordi a livello internazionale che vanno rispettati, che potranno essere modificati, ma comunque quello è il corpus su cui muoverci. Io credo che gli occidentali in questa vicenda, non dico dovrebbero starne fuori, ma certamente non entrare in una vicenda che è molto libica, caratterizzata da grandi tradizioni libiche. Abbiamo parlato di Berber, io aggiungerei l'importanza forse decisiva dell'uscita di Jalloud, della sua venuta a Roma per raggiungere Bengasi, cioè il passaggio di campo di una persona che era stata insieme a Gheddafi nel 69 durante la rivoluzione, ma che ha lasciato Gheddafi dopo essere stato il numero due più di 10 anni fa e che è l'esponente di una, se non della più grande tribù libica che conta quasi 1 milione di abitanti, quindi anche le tribù che hanno parteggiato per Gheddafi siederanno a questo virtuale tavolo degli accordi, quindi è il CNT più altre forze per formare un governo di transizione, questo è il passaggio delicato in cui noi possiamo, come dire, dare consigli e suggerimenti, ma le scelte fondamentali le faranno i libici in queste ore e in questi giorni. Sottosegretario, il petrolio e il gas libico sono uno dei principali motivi di interesse del nostro paese. Io ho chiesto a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore di spiegarci meglio che cos'è il petrolio libico. Il petrolio libico non è tantissimo, è tanto ma non tantissimo, la produzione era intorno a 1.700.000 barili al giorno prima della guerra, 1.5-1.6 venivano esportati. La cosa importante è che si tratta di un petrolio per la maggior parte di qualità molto pregiata, molto adatta ad essere trasformata in benzina, molto efficiente per le nostre raffinerie, soprattutto per le raffinerie dell'area del Mediterraneo, italiane e non solo, e averlo perduto totalmente perché a causa della guerra la produzione si è alla fine azzerata, è stato un problema, ha reso necessario rivolgersi ad altri fornitori per trovare petrolio di qualità analoghe e anche il rialzo di produzione che hanno promesso e attuato davvero i sauditi per supplire a questa mancanza di petrolio non è stato una soluzione adatta per gli impianti di raffinazione che hanno dovuto comprare greggi per esempio dall'Azerbaigian o dalla Siria, che è un altro problema perché con l'embargo al petrolio siriano adesso 300.000 barili al giorno di petrolio siriano pregiato altrettanto come quello libico vengono a mancare e questi tipi di petrolio, mancando quello libico, sono rincarati molto per i raffinatori. Sottosegretario Mantica, è in corso in qualche modo una, non posso dire una guerra, però insomma una competizione, una concorrenza con i vicini francesi per ciò che riguarda gli accordi con la Libia. Insomma, Sarkozy fin dall'inizio è stato molto veloce a prendere decisioni, si è stato capofila, adesso fra l'altro pare che la settimana prossima ci sia una riunione a Parigi con anche il Consiglio Nazionale Transitorio, la Francia insomma si muove in maniera molto veloce, molto mirata. Ma la Francia si muove in maniera molto veloce e molto mirata innanzitutto per un problema politico, perché la Francia in Tunisia e in Egitto diciamo ha preso un cappotto da 6-0, quindi adeve da un problema di immagine nel Mediterraneo, quindi diciamo che non è certamente partita in pole position, sta cercando di recuperare situazioni che in quell'area l'hanno vista in grandi difficoltà. Ricordiamo che un ministro degli esteri francese ha lasciato la carica per aver trascorso l'ultimo dell'anno in compagnia di Ben Ali, quindi mi pare qualche problema la Francia ce l'abbia. La competizione è normale, la competizione è legata peraltro a contratti e a concessioni. Spazio ce n'è per molti, la vostra stessa analista diceva giustamente non è un petrolio di grandi quantità ma di eccezionale qualità, noi l'abbiamo sostituito in gran parte con quello dell'Azerbaigian che è di pari qualità, è talmente importante che nessuna delle due parti ha mai pensato di distruggere una pompa sì. del petrolio, quindi vuol dire che sanno tutte le parti che cosa vuol dire il petrolio per la Libia. Senza petrolio la Libia non solo non avrebbe l'interesse che ha avuto, ma direi vivrebbe una realtà ben diversa dai 14.000 dollari pro capite che comunque la Libia ha raggiunto nel 2010, che per essere in Africa è un reddito molto molto elevato. Il petrolio è la loro fortuna e quindi su questo si giocherà la sana competizione che c'è fra i grandi produttori. L'Eni è sempre stato in posizioni avvantaggiate, abbiamo dei contratti, abbiamo dei rapporti, non vedo nulla di diverso da quello che è un'azione fatta. Poi voglio dire, la Francia ha giocato un certo ruolo in maniera qualche volta diciamo da locomotiva che ha trascinato dei vagoni in maniera piuttosto violenta e poi siamo riusciti a ricondurre il tutto a una giusta conduzione politica. Abbiamo insistito dall'inizio, l'abbiamo ribadito e lo ha dimostrato la vicenda, che la NATO è importante come pressione militare, ma il fine è sempre quello politico, cioè era quello di far saltare il regime di Gheddafi isolandolo e consentendo sia da un lato a Gheddafi di non compiere azioni criminali nei confronti della sua popolazione, sia, come ha detto giustamente il generale Jean, che saluto, aiutando fortemente i ribelli, soprattutto i berberi, che erano vicinissimi, abitano a 100-150 km da Tripoli, avevano molto meno strada da fare ed è, credo che quella sia stata la mossa strategica vincente, cioè appoggiare i berberi tenendo conto che la parte di Bengasi aveva dato il massimo ed eravamo ormai in una situazione di stallo. Ma la NATO, ripeto, ha avuto un ruolo importantissimo, ma il fine era solo quello politico, ci ha messo il tempo e ha impiegato il tempo che era necessario, tutti noi parlavamo di 3-4-5 mesi, che è il tempo necessario per creare le premesse del crollo politico. Direi alla NATO hanno partecipato in molti, la vittoria della NATO è di un'organizzazione militare che svolge molti ruoli nel mondo di stabilità e di pace. Fine politico, ma anche interessi economici. Professor Jean, c'è una competizione italo-francese in territorio libico e se sì, con l'era post-Gheddafi cambieranno gli equilibri? O l'Eni continuerà insomma a avere i contratti che ha sempre avuto? C'è una squadra che sta andando, è già arrivata a Bengasi, insomma si stanno muovendo le forze economiche. Dopo Gheddafi rimarrà tutto come era prima o no, secondo lei? Ma dovrebbe rimanere come era prima. Per il gas sicuramente rimarrà come prima, per un semplice motivo che per portare il gas in Europa c'è il Green Stream, un unico gasdotto sottomarino nel Mediterraneo che porta il petrolio, il gas libico a Gela, è praticamente l'unica strada in cui può essere convogliato, di conseguenza per il gas è una cosa obbligata. Per quanto riguarda il petrolio, sicuramente il petrolio libico è un petrolio di altissima qualità e che fa gola a parecchie persone, però ci sarà una libera competizione, ritengo, non è che ci siano delle forze differenti dalle forze del mercato che possono agire al riguardo. Padre mio, quello che è un atù per l'Italia è l'atù rappresentato dalle piccole e medie imprese e a parer mio quello che dovrebbe fare il governo italiano è uno sforzo per cercare di facilitare il rientro in Libia delle numerosissime piccole e medie imprese italiane che avevano già fatto joint venture in Libia, e questo sarebbe un atù che l'Italia ha e che non ha nessun altro paese. Allora, questa è la situazione dal punto di vista economico. Nel frattempo un portavoce dei ribelli da Londra, in stretto contatto ovviamente con Tripoli, dice che i ribelli hanno assunto il controllo di ormai circa il 95% della capitale. E poi però c'è un altro capitolo da affrontare, che è il giallo sulle sorti del colonnello Gheddafi. Sottosegretario, secondo lei è, come dire, non solo auspicabile ma prevedibile che la Corte Penale Internazionale si trovi a giudicare il Reis nei prossimi giorni? Ma io lo vedo molto, molto difficile, anche perché la Corte Penale Internazionale aveva detto che l'arresto deve essere fatto dai libici stessi, quindi credo che in questo momento saranno in corso sicuramente febbrili trattativi fra le parti sul destino di Gheddafi, qualora Gheddafi comunque accettasse di trattare del suo destino futuro, cioè di non fare la cosiddetta ultima ridotta, l'ultima battaglia. Glielo sto chiedendo, sottosegretario, perché nel frattempo la Corte Penale Internazionale sta spingendo per l'estradizione di Saif all'Islam, certo, appunto perché si presenti... È evidente, è come dire, nei poteri della Corte Penale Internazionale, bisogna vedere se la nuova realtà libica tratterà questo. Ci saranno anche qui probabilmente opinioni molto diverse tra chi faceva parte del CNT di Bengasi, che è vissuto nelle galere di Gheddafi, e chi magari fino all'altro giorno era un suo ministro, un suo sodale, perché questa poi è la realtà composita e complessa che con la definizione ribelli noi stiamo dando alla nuova realtà libica. Io non so, ecco, francamente non ho conosciuto Gheddafi, valutandolo non mi sembra certo l'uomo che potremmo ritrovare come Saddam Hussein nascosto in un pertugio, però voglio dire, nella vita i momenti e le dichiarazioni e i personaggi cambiano profondamente, forse molti sperano che un aereo venezuelano lo porti in Venezuela, come d'altronde Chavez ha detto più volte. Certamente tutti vorremmo che questa vicenda si chiudesse al più presto e senza ulteriori spargimenti di sangue in Libia. Ecco, fra l'altro ha citato il Venezuela di Chavez, però poi altri paesi amici ci sono, c'è lo Zimbabwe di Mugabe, c'è il Sudafrica che però ha smentito seccamente di aver inviato aerei per permettere appunto a Raïs di rifugiarsi nel paese africano. È chiaro che a questo punto stiamo facendo, insomma, cerchiamo di tratteggiare scenari quasi, no, di fantapolitica, però professor John, secondo lei è ipotizzabile una fuga al momento di Gheddafi, o siamo veramente oramai al tempo scaduto? Professor John, le chiedevo se secondo lei, citavamo il Venezuela di Chavez, lo Zimbabwe di Mugabe, oggi il Sudafrica qualche ora fa ha smentito di aver inviato aerei, secondo lei ci ha provato, c'è la possibilità che anche all'ultimo Gheddafi, insomma, esca dalla morsa, dalla tenaglia dei ribelli? Ma guardi, evidentemente ogni precisione è estremamente difficile. Il New York Times diceva che nei giorni scorsi c'era stato un afflusso di denaro dalla Libia verso l'Algeria e che in Algeria si erano rifugiati alcuni familiari di Gheddafi. Il fatto che però il figlio Saif al-Islam sia stato catturato significa che sembra che la famiglia non è che sia scappata, forse il colonnello si trova ancora in quel di Tripoli. Nell'attuale situazione, con la città praticamente circondata, è ben difficile che riesca a sfuggire. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, gentili ascoltatori. La crisi libica a nessun luogo è lontano. Allora ripercorriamo le tappe di questa crisi che ormai dura da 6 mesi. Dall'insurrezione di Bengasi all'operazione Odissea dell'Alba, fino alle voci di un'imminente fuga del Raïs. L'agonia del regime di Muammar Gheddafi è iniziata in Cirenaica, la meno fedele delle regioni libiche. Poi la rivolta si è trasformata in guerra, con la NATO schierata al fianco dei ribelli. E ora, a 6 mesi dai primi scontri, il regime del colonnello è un passo dalla fine. Il 15 febbraio scoppiano le prime proteste a Bengasi. Centinaia di persone si presentano davanti alla stazione di polizia della città per manifestare contro l'arresto di un attivista per i diritti civili. Il regime interviene con il pugno di ferro, ma la rivolta contagia l'intera Cirenaica. Diversi ministri e alti ufficiali si uniscono ai ribelli. La battaglia infuria a Tobruk e a Al-Aidabia. L'ONU vara le prime sanzioni nei confronti di Tripoli. Il 19 marzo, in seguito all'approvazione della risoluzione 1973 dell'ONU, il vertice di Parigi annuncia l'intervento militare internazionale a fianco dei ribelli. Gli obiettivi dell'attacco sono le postazioni aeree integrate libiche e le forze di terra di Gheddafi. Parte l'operazione Odissea dell'Alba, che coinvolge Francia, USA e Gran Bretagna. Parigi dà il via all'attacco. Il 31 l'operazione passa sotto il comando della NATO con il nome di Unified Protector. Ad aprile si moltiplicano gli appelli della comunità internazionale affinché Gheddafi lasci il paese. Il 25 Roma dà l'ok all'intervento militare italiano. Il 1 maggio Saif al-Arab, figlio minore del Raïs, muore in un bombardamento della NATO. Continua l'avanzata dei ribelli che conquistano l'aeroporto di Misurata. A giugno la NATO decide di prolungare la sua missione fino alla fine di settembre. mentre il 27 la Corte Penale Internazionale spicca un mandato di cattura per Gheddafi, per suo figlio Saif al-Islam e per il capo dei servizi segreti Abdallah al-Senussi per crimini contro l'umanità. In luglio il gruppo di contatto, braccio politico dell'operazione NATO, riconosce il CNT come legittima autorità di governo. Proseguono violenti attacchi aerei su Tripoli. A fine agosto i ribelli avanzano verso Tripoli e conquistano le città chiave di Zliten e Zawiya, a una manciata di chilometri dalla capitale. Il 19 rimbalzano le voci di una fuga del Rais, poi smentite da un suo comunicato via radio, mentre il numero 2 del regime, Abdel Jalloud, fugge in Tunisia per poi approdare in Italia. Queste le tappe della crisi libica che stiamo ripercorrendo. Sottosegretario Mantica, prima di lasciare il suo lavoro, le volevo rivolgere un'ultima domanda. L'Occidente, la NATO, ha accompagnato questa rivoluzione, l'ha anche permessa, perché senza l'intervento all'inizio dell'aviazione francese le forze libiche avrebbero compiuto una strage a Bengasi. Ricordo molto bene il cimitero di carri armati distrutti dai Mirage francesi. Detto ciò, pensa che ci sia una responsabilità anche politica dell'Italia e dell'Europa in particolare nell'accompagnare anche una transizione politica che però sembra un po' difficile? Dicevo all'inizio della trasmissione, il Consiglio Nazionale Transitorio è fondamentalmente acefalo in questo momento, perché dopo l'omicidio di Younis un mese fa, come dire, le crepe sono venute fuori. Non stiamo consegnando una capitale, Tripoli, a un gruppo di ribelli senza una guida, senza una testa? Ma io credo che tutto in politica si misura anche nelle attese e nelle speranze che uno ha. Nel senso che anche la Tunisia, in questo momento è guidata da una signora, un personaggio molto anziano, che ha già rinviato le elezioni, l'Egitto potremmo definirlo un colpo di Stato militare. Cioè, mi pare noi dobbiamo guardare quello che di profondo sta avvenendo, cioè un cambiamento, compreso lo Yemen, compreso la Siria, che si manifesta in modi diversi, attraverso attori diversi, ma che dice che è finita l'epoca, come dire, di un nazionalismo arabo laico, possiamo anche definirlo così, forse questa definizione unisce i vari dittatori o i vari regimi autoritari che hanno contraddistinto gli ultimi 20 anni della storia del nord dell'Africa. Sottosegretario, la interrompo perché abbiamo ristabilito la linea con Cristiano Tinazzi che è a Tripoli. Cristiano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, dove ti trovi in questo momento? In che quartiere di Tripoli? In che zona? In questo momento mi trovo nel quartiere di Souk El Jumma, che è un quartiere nella zona est di Tripoli ed è completamente in mano alle forze ribelli. Quanto disti dal compound di Gheddafi? Alcuni chilometri, adesso non saprei quantificare, però non è distante, saranno 6 chilometri più o meno. Ecco, tu hai seguito l'avanzata dei ribelli fin dalle prime ore dell'alba, come si sono mossi? È stata una battaglia porta dopo porta, casa dopo casa? Che armi avevano? Le solite, voglio dire, i pick-up, i technical con la contraerea, i Kalashnikov, come erano armati? Sì, assolutamente, ma è stata una cosa totalmente imprevista, nel senso che la battaglia è durata poche ore. Quando io sono entrato a Tripoli nella notte verso le 3 con una piccola colonna di mezzi ribelli, c'era anche una certa attenzione, nel senso che io stesso non ero sicuro delle informazioni che mi venivano date dai ribelli e pensavo che assolutamente non poteva essere caduta in così poco tempo la capitale. In realtà siamo arrivati fino alla Piazza Verde, che era tenuta in mano da 50 soldati, erano visibili i segni dei combattimenti, le macchine di sfotte e quant'altro. Certo che poi dopo dalla gioia della sera, anche se devo dire che non c'era gente in piazza a quell'ora, e anche stamattina la gente non si è fatta vedere, ovviamente ha avuto paura in maniera motivata, perché poi poco prima delle 8 sono scoppiati di nuovo i combattimenti in città. Ecco, quanto forte è stata la risposta degli ultimi fedelissimi di Gheddafi? Le agenzie dicono che dei carri armati sono usciti dal compound per dirigersi verso il centro cittadino. Tu cosa hai potuto vedere nelle prime ore di questa giornata? Anche sono uscito appunto nelle prime ore della giornata e con un gruppo di ribelli ci siamo diretti verso il centro sulla strada che è stata a porto e siamo stati fatti oggetto di un'imboccata delle truppe di Gheddafi. Non si parla di grandi numeri, non ci sono grandi numeri da nessuna parte, ma devo dire che è stata abbastanza drammatica la situazione, perché ci hanno sparato con un mitragliatore affiancandoci con una macchina con delle false bandiere di Bengasi, e siamo dovuti scappare a piedi sotto il fuoco dei soldati di Gheddafi. È pieno di cecchini, ci sono alcuni quartieri che non sono assolutamente praticabili dai ribelli, come Abu Sleep. E direi che sì, la linea è caduta, cercheremo di ricontattare Cristiano Tinazzi nelle prossime ore. C'è Tinazzi, mi dicono. Cristiano, ci senti ancora? Eccoci, era caduta la linea. Un'ultima domanda prima di lasciarti al tuo lavoro. La popolazione di Tripoli, che termometro, che polso hai potuto tastare? Io da ieri sera a oggi non ho visto tantissima gente in piazza, varia da quartiere a quartiere. Nel quartiere dove mi trovo io sono tutti contro Gheddafi. Grazie allora a Cristiano Tinazzi, buona giornata, buon lavoro, in bocca al lupo. Ok, arrivederci, grazie a tutti. Queste le ultimissime da Cristiano Tinazzi, da Tripoli, della capitale libica. Sottosegretario, l'ho interrotta prima, cerchiamo di chiudere il ragionamento. Io le stavo chiedendo appunto se un Consiglio Nazionale Transitorio, una ribellione in qualche modo acefala, mi passi il termine in senso lato, ecco, in qualche modo avrà bisogno di un accompagnamento in questa transizione, oppure insomma sono affari libici, se li sbrigheranno loro con tutte le conseguenze del caso? Io intanto credo che sia un problema strettamente libico. Ci sono già tentativi di formule, di ipotesi lanciate anche dal mediatore dell'ONU al-Khattabi. Voglio dire, in realtà si tratta di comporre un gruppo da 5 a 10 a 8, non lo so, ma insomma un numero certamente di queste dimensioni che possa rappresentare, sia inclusivo di tutte le componenti che in qualche modo abbiamo accettato, ma che soprattutto nel mondo di Bengasi forse possono essere distinte grosso modo in due: coloro che comunque hanno collaborato con il regime e coloro che invece questo regime l'hanno combattuto e hanno sofferto e pagato anche con la galera la loro opposizione. Sono due anime profondamente diverse che hanno bisogno l'una dell'altra, perché in questa fase certamente dopo 42 anni è chiaro che c'è una classe dirigente che comunque ha lavorato o comunque ha, come dire, collaborato con il regime. Quindi un gruppo, il problema è poi forse fra di loro trovare il direttore di questa orchestra, quello capace in qualche modo di farne una sintesi. Anche questo è un problema libico. Credo che la comunità internazionale può solo aiutare i libici ad essere liberi nelle loro scelte, e forse aiutare proprio cercando di capire che cosa è avvenuto, quello che descriveva il vostro Tinazzi. Voglio dire, è una Tripoli forse diversa da quella che tutti noi avevamo immaginato, che qualcuno di noi aveva sperato, cioè milioni di persone in piazza. Non dimentichiamo che molti in Libia vivevano come funzionari dello Stato, quindi per molti la caduta del regime è un problema anche di prospettiva futura. C'era comunque una base di consenso attorno a Gheddafi, certamente più forte a Tripoli che da altri. Che non in Cirenaica, questo è chiaro. Probabilmente la città è caduta da sola, nel senso che i ribelli sono arrivati quando ormai nessuno era più in grado di contrastarlo, perché io credo di poter dire il regime si è rotto all'interno, è crollato all'interno, ha perso al suo interno la capacità di opporsi a quella che era un'avanzata certamente più forte dei ribelli, ma nessuno 24 ore fa immaginava che fosse l'avanzata decisiva. Questo va detto con grande chiarezza, quindi bisogna capire come è crollato il regime nelle ultime 24 ore, quanto hanno influito le forze che hanno dato aiuto a Gheddafi fino all'ultimo e che evidentemente poi all'ultimo hanno anche cambiato, ovviamente si pensa trattando, quindi forse molte delle cose che noi immaginiamo sono già scritte o sono già state dette e si stanno realizzando. E vedremo nelle prossime ore, noi seguiremo la crisi libica. Grazie al sottosegretario Mantica per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. E un'ultima domanda invece vuole fare la professor John prima di chiudere. Tra i tanti spettri agitati durante questi 6 mesi c'era il rischio dell'estremismo islamico. In particolare c'è una zona in Cirenaica che è tra Tobruk e tra Bengasi, c'è questa città di Dara dove Nel 2004 un think tank americano scoprì che la maggior parte degli assalitori, degli attentatori suicidi in Iraq venivano da quella zona, dove c'è una componente jihadista molto forte, che però Gheddafi in questi anni ha sempre tenuto a bada, anzi col pugno di ferro, no? Ha sempre tenuto ben sopita. Secondo lei questo rischio è ancora presente oppure, come dire, stiamo veramente tratteggiando cose da fantapolitica? Infatti il rischio è presente in tutte le società islamiche e soprattutto quando crolla un regime, chi prende il potere alla fine non è tanto chi ha iniziato le dimostrazioni o ha fatto le rivolte e così via, ma sono minoranze organizzate che sanno quello che vogliono. E questo è un rischio che corre non solamente la Libia, ma corre la Tunisia, in cui praticamente il fondamentalismo non esisteva, corre l'Egitto, in cui ci sono i gruppi salafiti che sono in concorrenza con i fratelli musulmani, e infatti l'esercito si appoggia sui fratelli musulmani sicuramente anche per tenere a bada questi gruppi salafiti. Il rischio esiste sicuramente, certo. E si tratta molto di come verrà gestito il dopo Gheddafi da parte del Consiglio Nazionale. Grazie. Allora, professor Carlo Jean, docente di studi strategici della LUISS di Roma, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie, arrivederla. E allora, i titoli di corsa, un grazie da Giampaolo Musumeci, un grazie anche da Riccardo Poli che ha confezionato con me questo programma, il grazie vi viene anche da Mauro De Angeli che era la parte tecnica. Nessun luogo lontano torna domani, puntuale 13:15.